Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. Come sentite anche da questo eco, puntata un po' particolare. Adesso vi faccio capire perché. Mi fate un applauso per favore, così iniziamo bene. Grazie, siamo in diretta chiaramente dal Salone del Libro di Torino e ringrazio anche a questo punto il primo degli ospiti che oggi si alterneranno dai nostri studi. Mi riferisco a Marco Polillo, che è presidente dell'Associazione Italiana Editori. Vi chiedo un applauso anche per lui, poi non vi rompo più le scatole. Grazie, grazie. Allora, puntata particolare, ma racconteremo anche oggi la cronaca e l'attualità economico-finanziaria del Paese, non solo. Puntata in cui ci occuperemo anche di libri, perché è un settore che, oltre che essere piacevole, fattura tanto. Siamo intorno ai 3 miliardi e mezzo di euro, quello che è il fatturato complessivo dell'editoria in Italia, con dati anche buoni sul 2010, ve lo anticipo, perché sono cresciuti di quasi 1 milione i lettori in un paese che storicamente legge poco. C'è anche chi dice che legge male, ma intanto legge poco, e l'anno scorso sono saliti di 968.000, tutti li avete misurati. Tra l'altro questo è un settore che dà lavoro a 36.000 persone. Chi volesse, chi si trovasse a Torino in questo momento al Salone del Libro, ricordo ancora dove siamo: siamo al padiglione 2, L161, spero di aver detto il numero correttamente. Ci sono posti a sedere? No, non ce ne sono più, ci sono posti in piedi, quelli non mancano mai. In questo paese sono più le sedie, meno le sedie dei pretendenti, storicamente anche al Salone non fa eccezione. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo chiaramente del libro, poi con Mario De Aglio, che sarà nostro ospite tra pochi minuti, racconteremo anche i dati Istat sulla situazione economica, ascolteremo il commento del ministro Giulio Tremonti, del commissario europeo Olli Rehn, poi parleremo anche di libri all'interno del Sole 24 Ore. Lunedì infatti il Sole 24 Ore esce con la prima delle guide pratiche, nel caso specifico una guida che si occupa di tutta la normativa che riguarda l'ampliamento della casa, quindi immagino che interessi anche i presenti oltre che chi ascolta. E poi con Cesare De Michelis, presidente, fondatore della casa editrice Marsilio, che ha compiuto quest'anno 50 anni, ragioneremo di economia e territori. Marsilio infatti da sempre segue un filone legato proprio allo sviluppo dei territori in maniera socio-economica, non solo nord-est, anche il nord-ovest, come i territori stanno reagendo a questa crisi. L'ultima cifra, come sempre, quella per i vostri sms, 349-238-6666. Partiamo con le notizie in breve. Allora partiamo subito dalla borsa, che è leggermente negativa a Milano, meno 0,30%. In realtà l'indice oggi non fotografa quello che sta capitando, perché se c'è Campari che guadagna il 2,66%, tempo di spritz dicevamo ogni tanto, Unicredit più 1,70%, Generali più 1,35%, Enel più 1,30%, TOZ invece, nonostante i conti buoni diffusi ieri, perde il 5%, Fondiaria Assai il 3,80%, Prismian il 3,30, Azimut il 3,15, Diasorin il 2,70, Intesa San Paolo male anch'essa, meno 2,40, Impregilo perde il 2,30, Mediolanum pure, la Popolare di Milano pure, meno 2,12, Ubibanca meno 2%, di nuovo in sofferenza tutte le banche, bene alcuni energetici, bene le generali più 1,35%. Una buona notizia arriva dal petrolio, che si mantiene sotto i 100 dollari al barile, 99,45, seppur in leggero rialzo. E passiamo subito alle notizie internazionali. Dall'America, un'inflazione allo 0,4% ad aprile, è assolutamente in linea con quanto si attendessero gli analisti. Invece dall'Europa, ed è il motivo per cui i titoli bancari oggi calano in questo modo, è arrivato un monito, uno degli ultimi moniti del Presidente della Banca Centrale Europea, che verrà sostituito a questo punto con ogni probabilità da Mario Draghi. Le banche devono rafforzare il capitale, soprattutto le cosiddette banche di importanza sistemica, le banche più grosse in Europa. Oggi, visto che siamo a Torino, immagino che interesserà anche alcuni dei presenti, è uscito la trimestrale di Intesa San Paolo, meno 4% l'utile, ecco perché il titolo perde, a 660 milioni di euro. E poi una decisione della Consob, l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari, che sta facendo discutere. La Consob ha deciso infatti che l'intervento del gruppo Unicredit nel riassetto di Fondiaria Sai, la famiglia Ligresti ha grosse difficoltà, grossi debiti, non comporta l'obbligo di un'offerta pubblica su tutto il titolo. Perché fa discutere? Perché invece lo stesso obbligo di offerta pubblica fu imposto ai francesi di Groupama quando iniziarono a annunciare il loro interesse per arrivare a una quota di rilievo dentro Fondiaria Sai. Il gruppo Thyssen sotto i riflettori per gli applausi, c'è stato anche un mea culpa, un'ammenda da parte di Confindustria, l'avete letto in questi giorni sui giornali. Il gruppo Thyssen, e chiaramente ne parliamo qui a Torino, molto dedicato al tema, vede crescere gli utili e il fatturato, però la cosa interessante a mio avviso è che il consiglio di sorveglianza del gruppo Thyssen ha deciso di scorporare l'attività dell'acciaio dal resto del gruppo. E ricordo che in Italia la Thyssen ha 3.600 dipendenti, di cui 2.700 a Terni. L'ipotesi a questo punto che possa disinvestire in Italia anche per avere una maggiore libertà di azione, si legge in una nota, per ulteriori miglioramenti strutturali e risparmi sui costi. Delle spiagge abbiamo già parlato, era ampiamente previsto che quanto il governo aveva inizialmente stabilito non sarebbe passato. I rilievi sono quelli del Presidente della Repubblica Napolitano, ma anche e soprattutto quelli europei. 90 anni non sono una concessione, sono un'eredità. L'Europa l'ha fatto notare e infatti c'è la marcia indietro del governo. Da 90 anni si passa a 20 anni come concessione, che viene ritenuta anche a livello europeo adeguata agli investimenti, e dopo 20 anni si va a rinegoziare. Bene, partiamo con il primo tema, 349-238-6666 per i vostri sms. Parliamo di libri, ne parliamo chiaramente da un punto di vista economico. C'è qualcuno che chiede al 349-238-6666 invece degli applausi di tirare mattoni. Vi pregherei di non seguire il consiglio, neanche le scarpe, non tirate niente per favore, casomai se non vi piace ve ne andate, ma insomma niente oggetti contundenti, perché adesso parliamo di libri e parliamo, ripeto, di un settore che ha da occupazione a quasi 1 milione di persone, che fattura 3,5 miliardi e che nel 2010, anno non facile per buona parte dell'industria italiana, seppur in recupero, ha chiuso con segni positivi. Altrettanto non possiamo dire dei primi mesi dell'anno, e vi arriveremo, ma segni positivi sia sui ricavi, sia, cosa che mi interessa ancora di più, sui lettori. Come sempre, chi conosce questo programma sa che in questi casi io lancio, e lo sto per fare, una scheda con tutti i dati, meglio espressi di quanto non riesca a fare io, 349-238-6666 per gli SMS e non per i mattoni. Vai. Donne, laureate del Centro Nord e ragazzi dagli 11 ai 17 anni. È questo l'identikit degli italiani che leggono di più, emerso dal rapporto Istat relativo al 2010. Smentita dunque l'opinione che i giovani leggono poco. I divoratori di pagine sono infatti bambini e ragazzi, con il picco maggiore di lettori, oltre il 65%, tra gli 11 e i 14 anni. Semmai il problema è la disaffezione al libro col passare degli anni, come testimonia il 23% di lettori over 75. Leggere comunque piace sempre di più agli italiani. Nel 2010, rispetto all'anno prima, la quota dei lettori è salita al 46,8%. Tradotto in cifre, circa 1 milione di persone si sono avvicinate alla lettura, portando a quasi 26,5 milioni coloro che dichiarano di aver letto nel tempo libero almeno un libro nei 12 mesi precedenti. Stringendo la lente sul lettore tipo, le donne superano ancora gli uomini. Le appassionate sono infatti il 53% contro il 40% dei maschi. A livello territoriale si legge di più al centro-nord, mentre al sud e nelle isole la quota di lettori è ben sotto la media nazionale. Leggere poi piace di più a laureati, direttivi quadri e impiegati, dirigenti, imprenditori e liberi professionisti, studenti. Non è invece il passatempo preferito da chi ha la licenza elementare o nessun titolo di studio, operai, pensionati e casalinghe. Infine risultano determinanti per le abitudini di lettura dei più giovani i comportamenti dei genitori e il numero di libri presenti in casa. A questo proposito, solo il 16% delle famiglie possiede oltre 200 volumi, mentre 2,3 milioni di famiglie, ossia una su 10, non ha nemmeno un libro tra le mura domestiche. Vabbè, tanta strada da fare, come ricorda la nostra scheda, ma qualche dato positivo. Leggo un messaggio prima di iniziare il tema del libro riferito al governo Berlusconi ho detto marcia indietro sulle spiagge. Scrivono alcuni ascoltatori, ma quale marcia indietro? Era solo una proposta iniziale. Adesso, per favore, c'era un disegno di legge al cui interno era contenuta una norma che diceva che i diritti per i gestori di spiagge sarebbero stati a 90 anni. Si è opposta l'Europa, si è opposta la Presidenza della Repubblica. Se non è una marcia indietro, cos'è? Non so, un cambio di rotta, un cambio di programma? Vabbè, dai, sono nominalismi. Andiamo avanti. Marco Polillo, allora, contenti del 2010, mi sembra che però nei primi 3-4 mesi dell'anno le cose siano un po' cambiate. Prego. Ma contenti sì, ma relativamente, nel senso che quando c'è un anno che si chiude con un segno positivo percentualmente superiore a quello dell'anno precedente, è chiaro che uno non può essere insoddisfatto. La contentezza però è mitigata dal fatto che siamo sempre su valori assolutamente insufficienti, non soltanto nel mondo intero ma anche nella stessa Europa. L'Italia continua a essere un paese dove si legge poco, non so se si legga male ma certamente poco, e anche se noi siamo riusciti a catturare, diciamo così, quasi 1 milione di nuovi lettori rispetto al 2010, c'è da tenere presente che le indagini statistiche, come avete sentito dalla scheda che è stata letta poc'anzi, parlano come lettori di persone che hanno letto almeno un libro all'anno. Un libro all'anno vuol dire un libro ogni 12 mesi. Ora, non ci sono dubbi. Quindi magari un libro di 160 pagine vuol dire leggere 10 pagine al mese, 12 pagine al mese. Come diceva Snoopy una volta, ho letto 2 righe al giorno, insomma, e mi era trasformato in lettore. Purtroppo i primi mesi del 2011 invece sono in controtendenza. Il gennaio è stato un mese tutto sommato accettabile, che ha mantenuto i valori dell'anno precedente. Febbraio, marzo e aprile hanno avuto una grossa caduta. Una grossa caduta che soltanto in parte incomincia a essere mitigata dal fatto che dopo Pasqua, dal 25... Come mai la caduta? La caduta, ne abbiamo parlato a lungo tra di noi anche in associazione. Io credo che il motivo più significativo sia che nel Natale del 2010, dove le vendite sono state ricche e abbondanti, gli editori hanno praticamente lanciato sul mercato tutti i grandissimi autori di bestseller. Quindi questo ha significato che il lettore si è trovato a disposizione i grandi nomi, quelli che lui avrebbe probabilmente comperato in ogni caso. In gennaio non ci sono stati grandissimi bestseller, così in febbraio, così in marzo, e siccome sappiamo che il bestseller tira pubblico in libreria... Un po' come il mercato cinematografico quando escono i grandi titoli. Allora, io spero che sia il caldo, che sia il venerdì. Insomma, un altro messaggio polemico, ce ne sono anche di non polemici, per carità, siete una radio seria, questo lo ringraziamo, evitate di dire scemenze dicendo che una famiglia su 10 non ha neanche un libro in casa. Noi diremo anche scemenze, però è così, non so, piaccia, purtroppo non è una piaccia o non piaccia. Vabbè, io vorrei fare un rapido sondaggio invece col pubblico che ho qui, mentre vedo Mario De Aglio, che invito a salire sul palco. Professor De Aglio, assorto negli studi, la chiamo sul palco così intanto ce l'ho. Un rapido sondaggio: se secondo voi i libri sono troppo cari o poco cari, cercate di essere onesti. Alzi la mano chi ritiene i libri troppo cari in generale. Pochi. Adesso è. Beh, siamo più o meno alla metà. E qui vengo alla domanda. Non mi faccia quella faccia. Non è che uno viene qua solo per essere incensato. No, allora, il tema dei libri cari o non cari è un tema, diciamo, in realtà di edizioni. Per cui edizioni rigide, non rigide. Avete un nome molto strano per chiamarle. Com'è che le chiamate le edizioni rigide? Hardcover. Copertina dura, sì. O rilegato. Allora... si può fare qualcosa sul fronte dei prezzi? Perché obiettivamente 25, 30, 18 euro per un libro in periodo di crisi, non dico che allontani il lettore, ma diciamo ci mette una buona mano. Ma il problema non è credo, di scendere con i prezzi di copertina, perché attenzione, bisogna intanto dire che i prezzi cambiano molto a secondo del tipo di edizione, cioè un libro nuovo nasce in edizione rilegata e costa intorno ai 20 euro, però quello stesso libro dopo alcuni mesi è recuperabile sul mercato in edizione economica, e in edizione economica magari costa la metà o forse anche meno dei 10 euro, costa 8-9 euro, e questo è un primo punto. In secondo luogo c'è da dire che spesso e volentieri i libri vengono venduti con un'alta percentuale di sconto sul prezzo di copertina. Se uno va in un supermercato o in un altro negozio appartenente alla grande distribuzione, trova spesso e volentieri che le novità vengono vendute con il 25-30% di sconto. A volte alcuni titoli civetta, come chiamano loro, vengono venduti col 40% di sconto. Quindi, sì, però guardi, glielo dico con la massima tranquillità, è chiaro che l'effetto saldo, ossia se esce prima il titolo e dopo 6 mesi esce in versione paperback, ovviamente uno va a aspettare 6 mesi e compra l'edizione che costa la metà. Certo. Per cui forse... Alcuni sì, altri no, certamente, ma voglio dire, il paperback è fatto per aumentare la diffusione dei libri. In tutti i paesi del mondo... tradizionalmente i paperback si vendono in quantità infinitamente superiore agli hardcover, cioè ai rilegati. È solo l'Italia che è in controtendenza, perché il libro viene ancora visto come una sorta di oggetto simbolo, oggetto regale, oggetto da esporre in libreria, e quindi compra più edizioni rilegate a caro prezzo di quanto non compri di edizioni economiche. Questo si collega ovviamente alla scheda che abbiamo sentito prima. Siccome sono pochi i lettori italiani, quei pochi sono appassionati alla novità appena uscita, e tutti gli altri, quelli che dovrebbero invece comprare edizione economica successivamente, non comprano nulla. Lei quanti libri legge all'anno? Ma io faccio l'editore. Mi dica quanti libri legge all'anno. Leggerò 90, 100, ma le mie letture non sono mai complete, leggendo perché devo decidere che cosa pubblicare. No, ma di libri che legge per sé, non per lavoro. Ah, i libri che leggo per me sono, ahimè, molto pochi, perché... Uno all'anno? No, saranno una decina all'anno almeno. Pensavo di più però, anche lì. Io leggo tutto il giorno, poi alla fine, come diceva Valentino Bompiani, il grande editore, il mestiere dell'editore ti fa disinnamorare dei libri. Perché la prevalenza dei libri, sì, sarebbe che uno come legge... dire che io non dovrei leggere giornali perché faccio giornalista, la prevalenza no, è che lei la similitudine sarebbe un'altra, nel senso che lei dovrebbe leggere 35 giornali tutti, compreso quelli che non le piacciono, non me li passano in mazzetta, è un problema economico anche per beato noi. Lei beato. Allora invece una domanda mi arriva dagli ascoltatori al 349-238-6666, la concorrenza dei cosiddetti tablets, quindi sì. E-books sono un fenomeno mediatico così di cui molto si discute, o iniziano a incidere anche nel mercato? Per ora sono solo un fenomeno mediatico di molto si discute. C'è un leggerissimo incremento di vendite, ma questo è ovvio, anche perché partiva da zero, di conseguenza non ci vuole molto a far salire la percentuale. Però dopo una mini esplosione natalizia del tablet, cioè dello strumento di lettura, e dopo una conseguente picco in alto degli scaricamenti dei file da internet dei romanzi, il mercato si è assestato. Il piccolo picco in alto era dovuto al fatto che la gente si era trovata questi oggetti regalati e dice: beh, vediamo un po' che cosa mi servono, e ha provato a comprare qualche cosa. Però poi non si è ancora assestato su dei livelli di crescita significativi, quindi siamo ancora indietro rispetto ai mercati lingua inglese, per esempio. Allora, io ringrazio il presidente dell'AIE, che è l'Associazione Italiana Editori, Marco Polillo, e saluto invece, per averci raggiunto nel nostro studio, Mario De Aglio, che chi ascolta Radio 24 questo programma da anni conosce come uno dei più acuti e arguti, anche perché ce l'ho accanto, non posso dire altrimenti, economisti di questo paese, editorialista alla Stampa. Fate un applauso a Polillo De Aglio, per favore, grazie. Lei quanti libri legge all'anno, professore? Ma io distingo i libri che annuso. Sono 150, cioè sniffa i prendo, li sfoglio, guardo la fine, guardo l'inizio, guardo l'indice e poi qualche cosa in più. Da quelli che assaporo, che sono 15 all'anno, sì. Quindi più o meno sulla media più o meno siamo di cioè, non è da voi che arriverà la ripresa dell'editoria, mi sembra di capire, perché se tutti leggessero come voi, auguri. E figli maschi, cambiamo tema invece seriamente, oggi i dati economici dell'Istat, il commento del ministro Tremonti e anche del commissario europeo. 349-238-6666 per i vostri sms, di questo parleremo chiaramente con Mario De Aglio. E allora l'Eurostat e l'agenzia si stanno facendo un applauso ancora, fatelo, non mi date fastidio al presidente dell'AIE. L'Agenzia Statistica Europea ha diffuso i dati sui primi tre mesi dell'anno. Il professor De Aglio non ci crederà, ma la Germania ha fatto il boom nei primi tre mesi dell'anno, incredibile. E noi invece restiamo un po' al palo. Devo dire, Grecia più 0,8% trimestre su trimestre, ma rispetto all'anno prima meno 5% l'economia greca. La Spagna rispetto all'anno prima più 0,8%, la Gran Bretagna più 1,8%, la Germania più 5% rispetto all'anno prima, praticamente quasi il triplo o il quadruplo di quella che è la media europea, e poi la chiamano locomotiva. E adesso non voglio essere accusato sotto campagna elettorale di così essere scettico sulla ripresa italiana. Leggo semplicemente il dato dell'Istat: più 0,1% nei primi tre mesi dell'anno e più 1% rispetto a un anno prima, e che significa un quinto della crescita tedesca, tra l'altro una crescita tutta legata, la nostra, anche quella tedesca, alle esportazioni. Si consuma poco, chi è davanti a me lo sa, si consuma niente, si consuma meno. Però il dato sulla crescita acquisita, cioè se dovessimo fare crescita zero da adesso fino a dicembre, avremmo già un più 0,5%, che non è gran cosa, è un prefisso telefonico, ma diciamo sempre meglio che niente. I dati, come sempre, li ricorda meglio di me questa scheda, poi commento, poi sentiamo Tremonti e poi commento di Mario De Aglio. 349-238-6666 per i vostri sms. Avanti a passo di lumaca. È questo il poco entusiasmante verdetto dell'Istat sulla performance dell'economia italiana nei primi tre mesi del 2011, in rallentamento per il quarto trimestre consecutivo. Rispetto all'ultima parte del 2010, il progresso è appena dello 0,1%, mentre il confronto su base annua evidenzia un più 1%. La crescita acquisita per il 2011, ossia il risultato che si avrebbe a fine anno ipotizzando che l'economia non cresca e non arretri tra aprile e dicembre, si attesta allo 0,5%, lontano dal più 1,1% previsto dal governo nei documenti di finanza pubblica. Quel che più preoccupa è che nel periodo gennaio-marzo sia l'industria che i servizi sono rimasti fermi. Solo l'agricoltura, che incide però per meno del 5% sulla formazione del PIL, ha chiuso il periodo in progresso. Il confronto internazionale non premia l'Italia neppure questa volta. Germania, Francia, Inghilterra, ma anche Spagna hanno mostrato una crescita del prodotto interno lordo superiore alla nostra. In particolare la Germania ha vissuto un piccolo boom grazie a un PIL in progresso dell'1,5% rispetto al quarto trimestre del 2010 e del 4,9% rispetto all'anno prima. Entrambi i dati sono superiori alle previsioni e il dato annuale è il più forte dai tempi dell'unificazione. Il carburante per il motore tedesco è arrivato soprattutto dalle esportazioni in progresso di ben il 7,3%, grazie al balzo più forte dal 1950. Notizie incoraggianti anche dalla tormentata Grecia, tornata a crescere nei primi tre mesi del 2011 dello 0,8%. Nel loro insieme, i paesi aderenti all'euro hanno archiviato un progresso del PIL dello 0,8% trimestre su trimestre e del 2,5% annuo. Io sulla Grecia andrei cauto. Esiste un'espressione che lei conosce molto bene, professor De Aglio, che si chiama il rimbalzo del gatto morto, che significa che se tu lanci un gatto da un grattacielo, questo tende a rimbalzare, ma è morto, nel senso non ha... non vorrei menare così sfortuna alla Grecia, però insomma, quando fai meno 4%, anche se fai più 0,8 un anno, un trimestre, non è gran cosa. In una battuta, perché poi devo andare in meteo e pubblicità e poi analizziamo invece i dati italiani, ma... che cosa, qual è il doping della Germania che le permette di fare delle cose che non esistono nel resto d'Europa? Sono andati a mettersi nei settori più produttivi, esattamente quelli che noi abbiamo lasciato. Partiamo quindi, subito bene. Ah, bene, inizio di ottimismo, perfetto. Più chimica, più farmaceutica, più elettronica, molto mirata in alcune cose. In più, nei settori che abbiamo in comune, come la meccanica, hanno scelto delle nicchie che vanno molto forti. Però i consumi non ci sono neanche in Germania. No. Cioè, no, tutto infatti export. È tutta una ripresa così, insomma. Anche i tedeschi non sono ancora completamente arrivati ai livelli pre-crisi. Mi scusi, ma chi consuma in Europa? Nessuno? Nessuno. Nessuno, perfetto. Chi consuma sta in Asia. Chi consuma sta in Asia, chi compra i libri però sta qua, almeno questo concedetemelo. Meteo, pubblicità, ci rivediamo fra un'eternità. Quanto? Sei minuti esatti, me ne avete caricata tanti, sette minuti esatti, e poi di nuovo in diretta con Focus Economia. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Focus Economia dal Salone del Libro di Torino, ripeto, padiglione 2, L161. Siccome non ce li fanno mai gli applausi, anche di solito becco solo sms critici, me ne fate un altro che mi sta piacendo. Io non sono narciso, però questa cosa scatena un po' la, così, un po' di narcisismo lo scatena. Allora, torniamo a essere seri. Questa è una delle più grosse balle che ho mai raccontato in diretta. Allora, non che ne racconti, però insomma, questa veramente non reggeva. Professor De Aglio, intanto devo leggere l'SMS di un ascoltatore: il grande dubbio amletico è meglio leggere cavolate, lui non scrive cavolate, o rimanere ignoranti. Ma diciamo che se non leggi, la seconda è una certezza, sulla prima magari te la giochi, quello non lo puoi sapere fino alla fine. Come dire, meglio restare single o stare con una donna che non ami, o un uomo che non ami? Beh, gioca tra intanto. Torniamo al PIL tedesco e sentiamo il commento sui dati statistici oggi. PIL tedesco, PIL italiano, più 5% la Germania, più 4,9%, più 1% l'Italia, e sostanzialmente analoghe le altre crescite, meglio fa la Gran Bretagna, più 1,8%. Il ministro Tremonti ha commentato, ha detto: l'Italia cresce ma dobbiamo fare di più. Su questo mi sembra che ci possa essere massima condivisione. Noi sappiamo che cosa dobbiamo fare, essere tranquilli, forti e andare avanti. Poi vediamo come si sviluppano le cose nel mondo, non dipende più da un paese solo o da un governo solo. Il mondo è diventato unificato. L'Italia ha dei numeri di crescita. Certo, noi andiamo meno forte della Germania, che però 5 anni fa andava meno forte dell'Italia. Noi dobbiamo fare di più. Rispetto a Inghilterra, Francia, i nostri numeri sono più o meno uguali. Dicono diverso i nostri detrattori, che poi sono i detrattori non del governo ma dell'Italia, ma i numeri sono più o meno tutti allineati. La particolarità dell'Italia è fatta da un tasso di evasione e di economia, diciamo, illegale, che è fortissimo, e questo spiega tante cose. Il paese nell'insieme tiene, però tiene anche dal lato sbagliato della illegalità, e dobbiamo ridurla. Allora, così il ministro Tremonti, devo dire che insomma, difficilmente criticabile. Faccio sentire, professor Daglio, anche cosa ha detto il commissario europeo Olli Rehn, che parlando dell'Italia, commissario agli affari economico e monetari, ha detto, insomma, sentiamo, dai, poi gli facciamo anche un commento animale. Concerning Italy, the public debt is indeed soon peaking. Riguardo all'Italia, il livello di indebitamento del paese raggiungerà presto il picco. Sicuramente nel contesto del rafforzamento della governance economica europea continueremo a spingere sulla necessità di ridurre i debiti pubblici. In questo senso è importante che l'Italia raggiunga presto il livello di stabilizzazione, in modo da poter cominciare a ridurre il debito quanto prima. Facendo questo, l'Italia sarà in linea con le direttive previste dalla nuova governance economica dell'Unione. Economic governance of the Union. Allora, professor De Aglio, voi sapete cosa facciamo quando uno, diciamo, la tira un po'? Qualcuno se lo ricorda? Che c'è un animale? A dire che presto arriverà il picco del debito italiano, per esorcizzarlo, insomma, venerdì, mi fate sentire un gufo anche qui a Torino, per favore. Allora, esorcizzata la gufata di Olly Rehn, il tema resta. Tremonti dice, attenzione, Francia, Gran Bretagna e gli altri paesi dell'area euro, la Gran Bretagna non c'è chiaramente, però crescono come noi. Quindi in realtà è la Germania che è diversa, noi siamo nella stessa barca. Professor De Aglio. No, ci sono ancora dei margini diversi. La Germania sta andando più forte di tutti, gli altri tengono comunque un'andatura maggiore della nostra. Dobbiamo dire chiaramente che siamo gli ultimi della classe, punto. Dopodiché faremo gli esami di riparazione, passeremo tutto, torneremo avanti, ma per il momento non è così. Beh, insomma, c'è anche il Portogallo, non è che vorrei confrontarmi proprio con i ripetenti, insomma, la Grecia, il Portogallo, l'Irlanda, anche la Spagna sono messi... Se noi prendiamo l'economia della Grecia... è grande più o meno come la provincia di Cuneo più quella di Imperia, voglio dire, cerchiamo di, noi siamo di un'altra dimensione, di un altro spessore. Noi possiamo in Europa confrontarci soltanto con Germania, Francia, Gran Bretagna, basta, e su quelli siamo decisamente distanziati. Allora, qui il tema è delle politiche e delle riforme a costo zero, però, perché io devo dare ragione al ministro Tremonti, nel senso, c'era un bel articolo oggi anche, se non ricordo male, su Corriere della Sera di Dario Di Vico, che diceva, insomma, si è generata in questo paese in maniera quasi carsica, quasi nascosta, una schiera di ministri dell'economia, Amato, Dini, Ciampi, Prodi, Padoa-Schioppa e Tremonti, che hanno messo in sicurezza i conti pubblici e hanno dato all'Italia un, diciamo, una diversa allure su base europea. Professor De Aglio, le riforme si possono fare a costo zero, perché Tremonti dice io i conti, il deficit non lo tocco. Certo, noi siamo impiccati al nostro debito. Ho capito, ma... E quindi così non si va molto avanti. Tutte le cure che possiamo fare sono cure molto estreme, molto difficili e molto scomode. E gliene dico una, tanto dico così una che poi dopo il traffico ne dice altre due. Per provare a... lei sa quanti sono gli operai in Italia? È così a secco? A secco. Gli operai in Italia? Operai. No, mi dica. 4 milioni e qualche cosa. Quindi meno delle imprese, diciamo. Aspetti un momento, lei sa quanti sono i liberi professionisti iscritti agli albi professionali in Italia, cioè quelli in cui c'è una barriera all'ingresso, quindi uno non può andare a fare questo? Mi dico, 9 milioni. Altri 4 milioni. 4 milioni. Poi ci metta dentro 4 milioni di dipendenti pubblici, fanno 12 milioni su 23 milioni di occupati. Tutti questi, bene o male, e sono cose degnissime, no? Ma hanno dei privilegi, hanno delle reti di sicurezza, e che vuol dire che gli altri non le avranno mai. Sì, quindi il privilegio. Andiamo in quelle direzioni oppure non facciamo nulla. Allora, adesso ne parliamo dopo il traffico. Il privilegio di un avvocato, di un medico, di un notaio, di un farmacista, senza voler fare populista, rispetto al privilegio di un operaio, è un po' diverso. Assolutamente. Sono due privilegi, sì, diversi. Da un punto di vista economico, il risultato però è dello stesso tipo. Allora, di questo torniamo a parlare. Il traffico, 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, intanto noto con piacere che tra il pubblico in questo studio ci sono anche donne, non che ne avessi dubbi, però spesso si dice che l'economia è una scienza triste, le donne sono un sesso allegro, le due cose evidentemente siamo riusciti a conciliarle, almeno quello ce lo riconosce, professor De Aglio. Mi dica invece perché mette assieme le categorie professionali protette, come sono quelle che stanno in un ordine, compreso l'ordine dei giornalisti, gli operai... E voglio dire, mi arriva a 12 milioni di persone per dimostrare cosa, professore? Per dimostrare che per ognuna di queste persone che ha protezioni molte volte giustificate, molte volte degne, c'è un'altra persona che non riesce ad avere una stabilità. E quindi sono le partite IVA, quindi sono i lavoratori poco protetti del commercio, dei servizi, quindi sono i precari di cui ho qui davanti, stanno facendo già le associazioni, si chiama Il Nostro Tempo è Adesso, vogliono cambiare questo sistema. Sì, devo dire che scrivono in molti al 349-238-6666 dicendo che parlare di privilegi per gli operai anche a me sembra un po' Ma vede, io non parlo di privilegi, parlo proprio di reti di sicurezza, se vuole. Togliamo il termine che può in qualche modo offendere, anche, mi rendo conto. Però sono diversi dagli altri, cioè hanno qualche cosa in più quando cadono. Allora, lei fosse ministro dell'economia, che riforme farebbe adesso a costo zero? Cioè il gioco funziona finché però non tocchiamo i conti pubblici e il deficit. Ma guardi, se io fossi ministro dell'economia non credo che farei tanto meglio, perché anche su queste riforme qui avrei molti dubbi. Finché rimaniamo impiccati al debito pubblico rimane così, punto. Questo è un dato del problema, continueremo a crescere poco. Ma riforme possibili che per esempio chiede la Confindustria, riforme degli ordini professionali, liberalizzazioni, liberare risorse, minori oneri burocratici per chi deve pagare le tasse? No, chiedo. Va tutto bene, come quando lei deve ristrutturare un appartamento e però ha i soldi per dare la tinta. Quindi noi possiamo dare una tinta migliore e sperare in bene. Si chiama dare una mano di bianco. Dare una mano di bianco. Sì, che non è il massimo, il massimo come ricetta economica. Mi scusi perché continuano a chiedermi attraverso gli sms. Ma lei cosa vorrebbe fare? Togliere le garanzie a chi lavora in un ordine professionale, agli operai, ai 12 milioni che ha? Guardi, o estenderle anche agli altri? No, estenderle anche agli altri non se ne parla perché non abbiamo i soldi. Un esempio molto chiaro, le lenzuolate di Bersani andavano nella direzione giusta e l'hanno tutte bloccate, i suoi e gli altri, tutti assieme, quindi si va dai tassisti e andare avanti, per carità, tutto giusto, ma il giovane non può fare il tassista, non può aprire questo, non può entrare da quell'altra parte, rimane sempre fuori. E ormai sono i quarantenni che rimangono fuori. Allora, intanto c'è Mariella che mi critica perché ho detto che le donne sono allegre. Cosa devo dire? Che le donne sono tristi, non ho capito. Veramente ogni tanto... invece, sulle riforme possibili e come far uscire questo paese dalla palude in cui si è ficcato, c'è chi dice, beh, sapete cosa c'è? Occorrono riforme anche più radicali. Basterebbero inizialmente dei segnali come l'abolizione del CNEL, non se ne abbia Marzano, ma un ente che in questo momento serve... a pochissimo, servirebbe anche spostare la tassazione dai redditi al patrimonio, non è che è una cosa che piace a me, è un'ipotesi allo studio, tassa un po' di meno i redditi, abbiamo dato un dato sul cuneo fiscale 3 giorni fa spaventoso per quello che riguarda l'Italia, cioè quanto viene tassato il lavoro, lì la convince l'ipotesi di chi dice che bisognerà arrivare prima o poi per reperire risorse a una forma di patrimoniale, sì o no? In qualche modo sì, ma qui abbiamo un pubblico presente, possiamo anche coinvolgerlo in qualche modo. Dunque, gli italiani hanno mediamente qualche decina di migliaia di bot, CCT eccetera. Come se la sentirebbe il paese se dicessimo tutto dove c'è 10 mettiamo 9? Una tantum? Però questi soldi qui che lo Stato risparmia, allora li impegna nel fare politiche che creano occupazione. Queste sono le riforme che sbloccano. Penso che il dubbio sia più sulla seconda parte che sulla prima. Cioè ti posso dare i soldi, abbiamo pagato anche la loro tassa, comunque... Vabbè, facciamo che riduciamo le imposte, per metà riduciamo le imposte... Sarebbe a favore di una patrimoniale qui in sala, chiaramente un campione non rappresentativo, alzi la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Una pochini, siamo al 30%, quindi mi sembra che l'idea, perlomeno nel nostro sondaggio istantaneo, sia stata bocciata. Se il malato non vuole farsi operare, tiriamo avanti con le pillole. Ah beh, ho capito, bisogna capire anche, certo, non ci può nemmeno essere l'accanimento terapeutico delle volte, però. Allora, un'ultima domanda e un ultimo commento lo vorrei su quanto sta avvenendo invece negli Stati Uniti, perché lei, io lo ricordo a chi ci guarda e chi ci ascolta, Mario Deaglia è stato il primo che nel 2007, ad agosto 2007, mi ha raccontato e ci ha raccontato che quello che stava per arrivare era uno tsunami. Allora prendiamo sempre con attenzione quello che dice, con qualche gesto scaramantico se volete, però lei per primo mi ha spiegato che nemmeno le banche americane allora avevano in mente quanto grosso fosse il buco. Hanno ripreso a fare i giochi di prima, distribuendosi i soldi di prima, sì o no? Assolutamente sì. Cioè, questa è la cosa veramente al di fuori di ogni comprensione. Non hanno imparato niente e mentre prima usavano i soldi loro, adesso usano i soldi del governo. E perché Barack Obama non riesce a fare la riforma? Perché anche Barack Obama ha avuto paura nei primi 3 mesi e gli ha dato tutta una serie di concessioni. Allora, fate un applauso a Mario Deaglio, per favore, che adesso ci lascia e ha un convegno qui al Salone del Libro di Torino. C'è il GR, poi non mancate l'appuntamento, come si dice in questi casi, con Cesare De Michelis, che 50 anni fa fondò la Marsilio, da sempre occupata a analizzare il rapporto tra economia e territorio. e discuteremo di economia di territorio, di imprenditori, di testardaggine, di visioni lunghe, di visioni brevi, di visioni miope. 349-238-6666 per i vostri sms. A 7-8 minuti di nuovo in diretta dal Salone del Libro di Torino. L'applauso ormai l'abbiamo chiesto, ce lo fanno, grazie a tutti, donne, uomini, giovani, anziani, bambini, pochi, ma è comprensibile. E arriviamo alla borsa, poi rapidamente parliamo di libri per il Sole 24 Ore, poi ci ha raggiunto Cesare De Michelis con cui parleremo di economia e territori. La borsa oggi, visto che siamo in collegamento dal Salone del Libro di Torino, la faccio io, spero che vi basti, e se no questo passa al convento, nel senso che l'indice MIBIT ha perso lo 0,11%, ma soprattutto le reazioni su TOZ dopo i dati di bilancio trimestrale, nonostante fossero positivi, meno 4,90%. Fondiaria SAI invece perde il 3,92% dopo che, come ricordavamo in apertura, la Consob ha detto che non c'è obbligo di OPA per Unicredit sul gruppo Fondiaria SAI. Delusa la borsa, meno 3,92%, Prismia meno 3,30%, Azimut meno 3%, Diasorin meno 2,55%. Il monito della Banca Centrale Europea, che ha detto le banche di sistema, le banche grosse nei vari paesi devono aumentare il capitale e verranno messe alla prova, l'ha detto Jean-Claude Trichet, penalizza gli istituti bancari, ma anche i conti penalizzano gli istituti bancari. Mi riferisco a Intesa San Paolo, che perde il 2,40%, l'utile infatti dei primi tre mesi dell'anno è calato di quasi il 7%, a 661 milioni di euro. Questo non è piaciuto al mercato. Impregilo meno 2,30%, Mediolanum meno 2%, UbiBanca meno 2%, Banca Popolare di Milano meno 1,80%, ST Microelectronics meno 1,60%, Terna meno 1,5% e ancora A2A meno 1,5%, anch'essa Ansaldo STS meno 1,40%, Enel Green Power meno 1,30%. Chiudo tra i cali con il Banco Popolare, che perde l'1,33%. Bene invece tra i bancari Unicredito, più 1,77%. Ricordiamo i conti, ossia l'utile che è balzato a 810 milioni, più 55,7% il dato di ieri. Bene Campari, anch'essa in trimestrale, più 2,66%. Su Prismen e Azimut, lo dico per inciso, hanno pesato i conti trimestrali deludenti anche in questo caso. Enel chiude bene, più 1,5%. I dati di Enel sono superiori alle attese. L'utile è cresciuto nei primi tre mesi del 14,5% a 1,2 miliardi di euro per Enel. Chiudo con Saras, i ricavi salgono a 2,6 miliardi, torna anche l'utile per il gruppo della famiglia Moratti, un utile che va praticamente a 39,5 milioni di euro. Vorrei concludere con questi trimestrali con Atlantia, più 15% l'utile a 140 milioni di euro, Eterna più 7% a 114 milioni di euro. Bene anche Generali, ricordavamo da trimestrale, Tenaris più 1%, Mediobanca più 0,60%, il migliore in assoluto Green Vision più 10,4%, Saras dopo il ritorno all'utile più 6,5%, Vivendi più 4,70%, Seat pagine gialle sul risparmio più 4%, il peggiore Merck Tecnimont meno 33%, TAS meno 10%, Icon meno 9,80% e Mondo Home Entertainment meno 7,50%. 349-238-6666 per i vostri sms. Torniamo a parlare di libri con l'iniziativa del Sole 24 Ore in edicola da lunedì. La prima uscita lunedì 16 delle guide del Sole 24 Ore, quindi libri, carta, guide che parlano di cose molto pratiche, si chiamano infatti le guide pratiche del Sole 24 Ore. Siamo in collegamento con Cristiano dell'Oste della redazione del Sole 24 Ore. Buonasera Cristiano. Buonasera Sebastiano, buonasera agli ascoltatori. Allora, la prima guida, così lo racconto anche a chi è qui, diciamo, nello studio, nell'anfiteatro, non so come chiamarlo, nella platea di fronte ai nostri studi. La prima guida è sulla casa e sulla, esatto, nuova normativa per gli incentivi a allargare la casa, no? Per il rilancio del piano casa. In sostanza, Cos'è questa regola del silenzio assenso che poi voi spiegherete bene nella guida? Ecco, ci sono alcune novità che sono contenute nel decreto sviluppo, quello varato nei giorni scorsi. Una, l'hai detta tu adesso, è questo tentativo di rilanciare il piano casa. La prima volta l'abbiamo sentito nominare 2 anni fa, nel 2009, doveva muovere, si stimava 60 miliardi di euro nell'edilizia, è stato un grosso flop. Ora il governo prova a rilanciarlo con un meccanismo per cui se le regioni entro 120 giorni non danno le proprie normative, quindi arriveremo più o meno a metà di settembre, ecco, se le regioni non intervengono dovrebbe scattare la normativa nazionale che consentirà quindi di fare ampliamenti sulle abitazioni, anche in questo caso sugli edifici non residenziali, questa era una cosa che prima non si poteva fare e che io ho detto dovrebbe perché lo scenario che rischia di intervenire è quello magari di opposizioni da parte delle regioni che già lamentano un'invasione delle proprie competenze. Poi tu dicevi il silenzio assenso, questa invece è una normativa di carattere più generale che entra nel testo unico dell'edilizia, il silenzio assenso si applicava già alla DIA, già al principio della SCIA, adesso viene esteso anche al permesso di costruire, che è il titolo edilizio che si utilizza per gli interventi più pesanti, quindi anche per le nuove costruzioni, per le ristrutturazioni urbanistiche, per le demolizioni con ricostruzione diversa dall'originale. Quindi lunedì 16 maggio la prima delle uscite, ve le racconteremo in Focus Economia anche nei nostri GR. Grazie a Cristiano Dell'Oste del Sole 24 Ore. Grazie a voi. E allora, ultimo tema di questa puntata di Focus Economia in diretta dal Salone del Libro di Torino. Chiederei l'ultimo applauso, lo so che me lo chiesti tanti, a Cesare De Michelis, presidente della Marsilio, economista. La Marsilio è una casa editrice, per chi non la conoscesse, che quest'anno ha festeggiato i 50 anni. Vedo anche Giampiero Mughini che ascolta Focus Economia, mai me lo sarei aspettato, è colpa mia, non colpa sua. Dicevo, 50 anni della Marsilio. E all'interno dei vari titoli che voi avete pubblicato, ecco perché mi interessava la sua presenza, avete raccontato in questi 50 anni, negli ultimi anni, il rapporto tra economia e territori. Allora, visto che, come emerso chiaramente dalle assise di Bergamo, gli imprenditori non ritengono, non credono che la politica in questo momento, dalla politica arriveranno dei vantaggi o delle iniziative tali da far girare la situazione in positivo e dare una frustata, come spesso dicono i ministri, all'economia, mi sembra che i territori si stiano riorganizzando. Allora vorrei capire con lei, che li studia da anni, come Nord-Est, Nord-Ovest, Centro Italia e Sud stanno reagendo alla crisi. Vediamo delle iniziative sulle reti per il territorio, le aziende che cercano di mettersi in rete per fare massa critica. È forma, è facciata o c'è anche della sostanza ed un mutamento magari classico che non riusciamo a raccontare? Prego. Beh, la storia recente del Nord-Est soprattutto, ma non solo del Nord-Est, è che questo in parte è già avvenuto e sta avvenendo da qualche anno o da alcuni anni. La crisi della politica che ormai ha, anche se noi ogni tanto restringiamo la dimensione della memoria, ha una durata ultraventennale quasi, quindi non è che siamo a un fenomeno recente, ha creato un vuoto di iniziativa e un vuoto di risorse, anche perché alla crisi della politica, con l'ingresso dell'Italia nell'euro, si è anche creato un fortissimo calo degli investimenti pubblici nel sistema economico italiano. Tutto questo ha fatto sì che il territorio, lì dove esistevano le condizioni per uno sviluppo economico, ha fatto da sé in modo consistente. Devo dire, questo si può riconoscerlo anche in fatti che riusciamo in parte a percepire. Cioè, io, per parlare del territorio nel quale vivo e che conosco meglio, la dimensione delle piccole città del Nord-Est che nascevano, secondo come diceva Giuseppe De Rita molti anni fa, piccolo e bello, quindi la dimensione municipale, come il movimento dei sindaci e tutte quelle chiacchiere lì, avevano lasciato supporre che la dimensione localistica sarebbe stata premiante. Non è stato così, è in moto un processo di metropolizzazione del territorio con una oggettiva integrazione tra i singoli realtà municipali nel settore dei servizi, delle competenze e delle eccellenze, che hanno, comportano un rapporto di collaborazione molto più stretto. Cito solo un caso per far capire cosa intendo. Le università si sono moltiplicate nelle sedi nel corso degli anni in modo anche irragionevole e irrazionale. Nel Veneto e nel Triveneto, in ultimi mesi, stanno cercando di fare squadra di sistema, perché il calo delle risorse pubbliche, la crisi che le investe, fa sì che l'unica soluzione che hanno è mettersi in rete per cercare di resistere alla trasformazione. Questo avviene nell'università, ma avviene in mille altre questioni. È vero che la politica spesso non è capace di dare risposte di natura politica e amministrativa adeguate, cioè alla metropolizzazione del territorio non corrisponde assolutamente nessuna iniziativa istituzionale diversa, ecco. Sì, e questo però riguarda il ritardo della politica nel rendersi conto di quello che è il cambiamento, in questo caso socio-economico. Dopo il traffico vorrei sapere però come cambiano anche le direttrici a cui eravamo abituati a fare riferimento. Lei citava il Nord-Est, voi avete pubblicato un libro qualche anno fa di Giuseppe Berta, se non ricordo male, in cui si diceva sostanzialmente che il Nord-Est diventava sempre più Nord-Ovest e il Nord-Ovest, visto che siamo qui, diventava sempre più Nord-Est. Cioè da una parte a Nord-Est cercava la metropolizzazione, le imprese in rete così, e nel Piemonte e nella Val d'Aosta, nella parte diciamo più ovest del paese, si elogiava la piccola impresa e diventava sempre meno torinocentrica. Vorrei capire se è vero e soprattutto nel frattempo cosa succede al centro e al sud di questo paese. 349-238-6666 per gli sms traffico. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per l'ultima parte di Focus Economia dal Salone del Libro di Torino, padiglione 2, L161. Cesare De Michelis, mi racconta come sono cambiati, se è vero questo cambio di ruoli? Sicuramente da un lato non c'è dubbio che l'intera Italia settentrionale non vive più la realtà del Nord-Est come una realtà di frontiera e quindi come una realtà marginale ed emarginata. Quindi è inevitabile che in questo contesto il sistema dei vasi comunicanti crei un riallineamento delle posizioni. Ma mi pare che il dato più singolare di questo momento, di questo frangente, è che l'asse fondamentale dello sviluppo sul quale hanno costruito i governi del passato i loro disegni strategici, che era quello di un asse che andava lungo il corridoio 5, cioè da Barcellona verso l'Oriente, ecco, io ho l'impressione che stia perdendo di peso e di importanza nella logica dello sviluppo italiano e che dobbiamo assolutamente privilegiare l'attenzione, gli investimenti nell'asse nord-sud. Le rivolte di tutti i paesi arabi del meridione, la stessa crisi della Grecia e tutta la questione dei Balcani impongono che è lì che dobbiamo intervenire se non vogliamo trovare un sistema che esplode, come del resto in parte sta già esplodendo, e credo che su questa direzione qui abbiamo un ritardo di politica estera, di politica economica e di sistema portuale, perché il sistema portuale anche in queste settimane, soprattutto nell'Alto Adriatico, vede una fortissima competizione tutta verbale per il momento, più che concreta, quella verbale è un segnale inquietante tra Trieste e Venezia per fare investimenti in una crescita portuale non coordinata ma competitiva. Credo che su questo le amministrazioni del territorio e il governo del paese debbano dire parole chiare e forti contro ogni sorta di ulteriore frammentazione e competizione inutile. Ecco, mi racconta però una cosa, cioè, lei dice rispetto all'asse che per noi significava Torino-Trieste, il corridoio 5, avrà più peso la Taranto-Venezia. La Taranto-Venezia e quindi diciamo la Copenaghen-Anversa fino al sud del Mediterraneo. Su questo però lei ha registrato un cambiamento nel ruolo per esempio di Milano e Torino? Una volta si diceva a mezzogiorno il nord a Milano, frase spesso. Questo è ancora, anche questo, ci sono stati dei segnali, ma è ben di là da venire. Lo strabismo di Milano a ovest è ancora un dato innegabile. che tra l'altro insegue un modello di sviluppo che sta manifestando, basterebbe qui a Torino citare i recenti eventi sulla Fiat per capire come sta cambiando il sistema della distribuzione delle risorse qui a nord, e lo strabismo di Milano ha l'effetto di continuare a sottovalutare il potenziale di sviluppo che il nord-est ancora possiede, perché soprattutto le medie imprese a nord-est hanno dimostrato e continuano a dimostrare anche recentemente una capacità di crescita internazionale e di sviluppo, ma questo sviluppo è subordinato all'uscita dal piccolo e bello, che è una forma di condanna, ecco, al nanismo economico e alla non crescita. Ma non sarà che manchino più nel nord-est o nella dorsale adriatica del paese, quindi le Marche, gli Abruzzi, la Puglia e anche in parte l'Emilia, manchino delle grandi piattaforme metropolitane? Cioè il vantaggio di Torino nel momento in cui dialoga economicamente con Milano è che dialogano più o meno a pesi simili, Milano è più grande. Dalla parte est sono solo città piccole, 300, 200, 150 mila abitanti. Questo è quello che, se la politica volesse dare un segnale forte, potrebbe fare. Se no lo darà la realtà è che ormai aree metropolitane forti stanno diventando operative. La Patrevè prima di tutti, ma devo dire che lo stesso modello della Padova, Treviso, Venezia è ormai superato nei fatti, sia a est verso Pordenone sia a ovest verso Vicenza, in un'integrazione del territorio, soprattutto anche a nord verso l'area pedemontana e a sud verso l'area padana, che credo comporterebbe iniziative di politica economica da parte dei governi. Ma se i governi continueranno a fare i latitanti come stanno facendo da troppo tempo, sarà inevitabile che alcune iniziative spontanee producano qualcosa che assomiglierà di più a un processo di metropolizzazione che a un processo di frantumazione. Credo che ormai la convinzione negli imprenditori del nord-est, negli operatori economici, che piccolo non è bello ma è una sventura, si sia largamente diffusa. Naturalmente questo, notiamo bene che lo sviluppo di Milano negli anni recenti, nei decenni recenti, è stato tutto a favore della terziarizzazione, non certo dello sviluppo produttivo, e in questo senso, come le sanguisughe, è venuto a succhiare risorse a nord-est per garantire il livello di sviluppo del suo terziario, diciamo così, avanzato. Ecco, credo che dovremmo anche noi, e in parte sta accadendo, sviluppare un terziario autonomo e competitivo per poter stabilire delle relazioni più solide con anche il nord-ovest. Avrei molte altre cose da chiedere, ma la puntata sta terminando. Una domanda gliela faccio, perché l'ho fatta anche agli altri ospiti: lei quanti libri legge all'anno, visto che fa il presidente della Marsiglia? Non quelli che legge per lavoro, quelli che legge, no, per è diletto. È difficile distinguere il lavoro dal diletto nel mio caso. Io non posso dirglielo perché la gente poi non mi crede, ma ne leggo svariate centinaia. Povera sua moglie. Allora, grazie anche a Cesare De Michelis, grazie a voi soprattutto per essere rimasti pazientemente col caldo ad ascoltare questo programma. Vi auguro un bel salone del libro a chi è presente, auguro a tutti quelli in ascolto invece un buon fine settimana. Noi ci risentiamo lunedì con un'altra puntata di Focus Economia. Come sempre un grazie a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione. Focus torna alle 17 di lunedì. Radio 24. La passione si sente.